Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Sono le 21, caro Oscar, sono eccoci qua. Tutto, questo 29 novembre ci sono le donne italiane tutte preoccupate per il tuo appello di tornare in cucina, ma hai creato un casino. Vabbè, ma un po' di ironia nelle cose, ma vivetevi la vita un po' più serenamente. Ho avuto già un sms di mia moglie che dice: devi rompere questa sodalità tua, devi dirlo che io non ci andrò mai in cucina, è noto, cari ascoltatori. Ma anche mia moglie, abbiamo fatto la cucina, ma così come luogo di... Solo per i gatti, di passaggio. Ci si stiracchiano sopra, eccetera, eccetera. No, va bene, era chiaramente una battuta, cari ascoltatori. Buon 29 novembre a tutti. Buon onomastico a chi si chiama Saturnino. Saturnino, il santo che piace a Giannino, perché decapitato, che lui martire decapitato. Pensavo per la rima, banalmente. Invece. No, perché a me quelli che perdono la testa, devi sapere che i santi decapitati mi sono più simpatici, poverini, dei tanti che hanno avuto dei, purtroppo, torture terribili. Perché ho sempre trovato molto singolare questa cosa di, pensaci bene, il santo che perde la, quanti perdono la testa, per esempio la Polcan. Polcan ne ha fatta un'altra delle sue, arrestato pare e rilasciato a New York perché avrebbe passato questo weekend con una escort, tra non l'altro. Per quello l'hanno arrestato, il problema è che avrebbe telefonato dicendo: mi hanno rapito, questa donna mi fa del male, datemi soldi. E la famiglia a un certo punto ha detto: ha chiamato la polizia. Esatto. La famiglia, sì, esatto. Vedi che il rigore Sabaudo, né? Tra l'altro, giusto per la fredda cronaca, racconta il Corriere, anche questa volta l'escort sarebbe transessuale. Però non è tanto questo che fa la differenza. No. Assolutamente. Non è l'esistenza o meno di un appendice. Questo rigore Sabaudo, vedi, ecco, la famiglia l'ha, ecco, come dire, di fronte, ecco, alla richiesta: datemi 10.000 dollari, sono sequestrato. No, non metterla sul fatto che non credo che fosse i 10.000 dollari a fare la differenza alla famiglia. Il punto è che la famiglia deve aver pensato, e ci risiamo, e dopo il 2005 si verrebbe a sapere tutto, e insomma la Chrysler l'abbiamo presa. E a quel punto scatta il rigore. Perché il rigore. Avrebbero potuto dargli 10.000 euro e metterla, basta, là non si fa. Metterla a tacere. No. Ma com'è? Esagerumanen. Quindi, ecco, questo è il rigore Sabaudo. Esagerumanen. E però il rigore che colpisce da parte della famiglia, chiama la polizia. Insomma, in realtà il nipote non capisce che non può fare quello che faceva il vecchio nonno solo perché all'epoca non c'era l'informazione globale. Adesso si viene a sapere subito. Questo è il punto. Cioè, non è che puoi ammazzare la gente in macchina come faceva il nonno, tanto caro agli italiani, e nessuno dice niente per tutta la vita. Tant'è che quando lo dici, la gente dice: ma chi? Di chi stai parlando? Tanto mai i giornali italiani si sono soffermati sulla vicenda. Non puoi farlo, perché oggi con l'informazione globale si viene a sapere tutto. Si sa tutto. Comunque San Saturnino l'abbiamo San detto. San Saturnino, e poi a me piace molto la santa. Io l'ho sempre consigliata all'Enel, questa santa, perché è una santa particolare. L'Enel non vuole capirlo che deve fare una campagna sui santi per ringraziarsi bene i clienti. Santa illuminata da Todi. Santa illuminata da Todi, e sicuramente merita molto, perché è una storia incredibile, anche lei è una martire del 303, ma santa illuminata da Todi. Amici dell'Enel, investite su questa santa. Qua, se non c'è alcun dubbio su questo. Le date del giorno. L'ONU nel 1990 autorizzava l'azione militare contro l'Iraq, l'Iraq che aveva invaso il Kuwait. Da allora, insomma, nasce il grande incendio, e direi che proprio no, non è ancora spento, per così dire. A me è sempre piaciuto questa vicenda, che quando avvenne mi lasciò senza parole, e oggi l'anniversario nel 2010, devi sapere che l'ex elettricista di Picasso, a un certo punto se ne esce e dice: io devo dichiararlo perché il fisco, se no io non so più come fare. Io ho 271 opere del maestro che me le dava per i lavoretti elettrici che io facevo a casa sua in Francia. 271, cazzo, ma non potevo essere io quell'elettricista, ecco, porca di una miseriaccia nera. E va bene, compleanni ce ne sono? Auguri a Lorenzo Bini Smaghi, persona che io stimo molto, ex membro del board della BCE, banchiere e marito di Veronica De Romanis. Per una volta io voglio ricordare lui come il marito di Veronica. Ne devo fare anche una io, perché mio amico è diventato, che ospitiamo, dello Utah, Jordan, oggi compie 26 anni. Quindi, insomma, che ha votato Trump? No. Ha votato la Clinton, ha anche pianto per la vittoria di Trump. E poi stasera faremo una cenetta di compleanno per Jordan. va bene. Per ristorarlo. Per ristorarlo. Don't cry for me. Esatto. Tra l'altro, dico, sai qual è, in realtà, sai qual è il rigore sabaudo, vero? Il vero rigore sabaudo. Quello, l'unico vero rigore sabaudo è quello del Toro. No, adesso... Quello che danno la Juve. No, io sapevo già dove. Guarda, oggi, tu non hai segnalato un articolo fondamentale, perché sei lì sempre che tricchi e ballacchi sull'Inter e il Milan con Meazza e dimentichi la questione fondamentale. Che cosa? La Cina. Fondamentale. No, dovevi segnalare l'articolo a pagina 51 del Corriere della Sera di oggi. Che dice? Juve, tutte le crepe sotto i primati. E si inizia una riflessione su un tema di altro che la crisi, domenica il referendum e le banche, MPS, eccetera, eccetera. Juve, tutte le crepe sotto i primati. No, ma delle banche, Oscar, dopo la pubblicità qualcosa sì, deve sì, dire, sì, perché sì, il Financial sì. Times che dice che 8 banche, però dobbiamo dare la precedenza a questo ospite che ringraziamo, perché caro Oscar, pensa, si è fermato per noi, una persona che ieri abbiamo scoperto da un'intervista di Libero, è un dottore, è un ginecologo, si chiama Michele Mariano, lo salutiamo, buongiorno dottor Mariano, grazie, le rubiamo pochi minuti. Il dottor Michele Mariano ha una caratteristica, diciamo in 2 secondi, è l'unico ginecologo non obiettore della regione Molise negli ospedali, ma proprio l'unico ospedale pubblico. Non è proprio l'unico. È l'unico obiettore. Non obiettore. Che pratica gli interventi di interruzione dell'emorragia. C'è un'altra collega non obiettrice, però non pratica gli interventi. E come mai? E questo è interessante. Perché è strutturata in un altro, nel reparto di ginecologia. Mio è un reparto separato. Dalla ginecologia. Però resta il fatto che lei è l'unico a operare gli interventi. L'unico che può portare a compimento un aborto in base alla legge 194. Beh, solidarietà e ringraziamenti. Io però trovo apocalitticamente non accettabile l'idea che un servizio pubblico non si ponga questo problema. Anche perché, lo voglio dire, prima che parli lei, ma glielo chiedo, insomma, non ritengo troppo, non so, voglio dire dignitoso, ma anche umanamente mettere un medico nella condizione di dover operare sistematicamente dall'alba al tramonto tutti i giorni, questo perché è l'unico. Allora, io non voglio chiederle come si sente, però non mi sembra giusto, ecco, non credo che sia giusta un'offerta sanitaria pianificata senza tener conto che c'è bisogno di una pluralità nei reparti, negli ospedali, eccetera eccetera. Sbaglio? No, è esattamente quello che penso. Cioè io da circa 7 anni che eseguo soltanto le interruzioni, faccio soltanto le IVG, diciamo, le interruzioni di gravidanza. Prima ero strutturato nel reparto, poi sono successe delle situazioni particolari con la venuta di altri primari. Io ero primario facente funzioni nel reparto di ginecologia fino a quando non è stata fatta una convenzione con l'Università Cattolica. La regione Molise ha fatto questa convenzione, è venuto un altro, è stato nominato un altro primario, diciamo così, nominato senza concorsi, senza niente, perché nella regione Molise non si possono ancora fare i concorsi in quanto stiamo in piano di rientro. Allora io ho preferito andare via, visto che poi per motivi pure di opportunità, la Cattolica è contro, l'Università Cattolica è contro l'interruzione di gravidanza, e io ho preferito continuare a fare quello che facevo, perché prima facevo quello, le IVG, e facevo il ginecologo, tutto quello che c'era da fare. Ero il primario facendo funzione per 2 anni. E tra l'altro dopodiché? Dopodiché io ero responsabile di una unità operativa semplice, si chiama, dipartimentale. Allora mi sono messo da parte e ho fatto solo questo per evitare. Infatti la domanda è questa: si fa carriera? Mi hanno impedito di andare di là. No, ma infatti la domanda è questa: essere io volevo, non... ho fatto anche la richiesta. Certo. Essere non obiettore porta a non fare carriera? Certo, questo è sacrosanto. Se lei ma fa perché, un'indagine perché, secondo in Italia, lei? Sicuramente di primari ginecologi che praticano le IVG, sicuramente non so se ce ne siano. Ma si è data una risposta per questo? Cioè lei si dà una risposta a questa domanda? Risposta è piuttosto banale. Siamo in una società dove il 99% delle persone si professa cattolica, dove la Chiesa la fa da padrona, dove tutto quello che si fa è dipendente. Però naturalmente significa che siccome le nomine poi, purtroppo, io non sono d'accordo, ma funziona così in Italia, e la politica deve avere l'ultima parola, significa che non è la Chiesa, è la politica è che la a quel punto... che dipende dalla Chiesa, certo. E viceversa. Che a seconda, per così dire. Lei dipende... a vicenda. Ecco. Dipende totalmente dalla Chiesa, secondo lei, oppure... In gran parte sì. Senta, lei ha raccontato anche nell'intervista che è il primo a non volere mai che una donna... abortisca, ma è una questione proprio di legge di uno Stato, lo Stato italiano, da rispettare. Questo è il punto che vorrei che lei chiarisse. Il punto è, io cerco di rispettare in tutti i suoi aspetti, di applicare e rispettare la 194, che è un'ottima legge, che ha risolto tante problematiche per le donne, ha ridotto gli aborti clandestini. Poi non è vero che con la legge 194, come si dice in giro, sono aumentate le interruzioni sono costantemente diminuite negli anni. Prima arrivavamo a 140.000 l'anno, ora siamo arrivati a 96-97.000. Quindi è un'ottima legge, per la donna soprattutto, è stata una ottima legge. Per quanto riguarda poi il voler fare o non voler fare, essere, insomma, è chiaro che fare un'interruzione di gravidanza non è piacevole. Sì, io sono cosciente che l'interruzione di gravidanza comporta lo spegnimento di una vita, diciamo così. È una vita, diciamo, non autonoma, però è un embrione, un feto che potrebbe diventare un essere umano. Vita, però, le guerre che ci sono in giro per il mondo, gli esseri umani, diciamo, ne distruggono parecchi. Lei cosa risponde alle critiche? Guardi che arrivano anche via sms mentre parliamo di chi ovviamente le dà brutalmente dell'assassino. Ma no. È meglio non rispondere assolutamente. Non saprei che rispondere a sta gente, perché non vanno in fondo al problema. Il problema è che è stata fatta una legge dello Stato, è stata fatta da una maggioranza parlamentare, è stata voluta quindi dalla maggioranza degli italiani. È stata fatta per assecondare il volere delle donne che hanno questi problemi, cioè che vanno a interrompere una gravidanza che comporta per loro veramente qualcosa di grosso. Nessuna donna va in giro a interrompere la gravidanza, ad abortire. No, fischiettando. Sono persone che si qualificano così, da sole. Certo, questo tipo di accuse. No, mi sembra la risposta giusta. E nei confronti dei colleghi, invece, dottor Mariano? Più o meno. Cioè, come la vedono? Perché lei, essendo l'unico che pratica l'interruzione di un'intera regione. Mi vedono, non lo so dentro di loro come mi vedono, però regolarmente usufruiscono del servizio, mandando le loro pazienti, mandando. Le donne, certo. Arriva la telefonata in cui quella è amica di mia moglie, amica di mia figlia, amica, io non lo faccio, però andate dal dottor Mariano. Certo, subito. Senta, dottor Mariano, non provano neanche a distogliere la donna dal fare o meno, oppure niente, andate dal dottor Mariano che ci pensa lui. Senta, dottor Mariano, poi tocca a me, tocca al sottoscritto parlare con la donna, cercare anche di subirsi poi le accuse, appunto, di essere quello che dottor Mariano, nella sua carriera lei è capitato quello che a mio parere ha più occasioni degli altri di salvare qualche vita umana, e mi capita abbastanza frequentemente questa cosa. Le è capitato, dottore, di vedere nella sua carriera colleghi che naturalmente sono noti e associati ufficialmente nel servizio pubblico in cui prestano servizio alla qualifica di obiettore e che in realtà poi canalizzano pazienti verso interruzioni private? Interruzioni private? Interruzioni di gravidanza private a pagamento? Non lo so, non conosco, diciamo, questa situazione. Non credo che ci sono aborti clandestini, ci sono, continuano a starci. Però non credo che, non ho notizie di queste cose qui, diciamo. Se, secondo me, se la donna fa qualcosa di clandestino, non lo fa attraverso questi colleghi, insomma, non credo, non avrebbe senso, anche perché pur essendo io solo è un servizio che funziona egregiamente, insomma, tutela al massimo la privacy, cerco di non rifiutare niente a nessuno, sempre rispettando la legge, per cui non c'è motivo. Poi di se questo. Qualcuno va fuori perché non vuole essere visto, il nostro è un ambiente. Vabbè, chiaro, questo non lo può sapere. Dottor Mariano, noi la lasciamo, la ringraziamo. Guardi, arrivano, Oscar, anche tanti messaggi, risponderà a Dio di questo, ma credo che lei sia ateo, quindi non questo problema lei... Penso non... che sia dall'intervista che ho fatto al Libero, sì, che... ho detto chiaramente di essere ateo, per cui io non credo di non rispondere a quello che pensano, rispondere soltanto alla giustizia terrena, diciamo. La ringraziamo, ricordiamo Michele Mariano è l'unico medico ginecologo che nella regione Molise pratica le interruzioni volontarie di gravidanza. L'incomprensibile ipocrisia della politica, che da una parte mette la legge e dall'altra consente che... Però devo dire, guarda che Oscar, ci sono anche chi manda un abbraccio, chi dice bravo, cioè chi dice però tantissimi che in maniera dura risponderai a Dio, assassino, killer. Questo non intervengo sull'opinione libera delle persone. Certo. Dico che l'ipocrisia di un sistema che da una parte approva la legge e dall'altra assiste al fatto che dopo decenni, in vastissime parti d'Italia, compresa la Lombardia, che non è questione di nord e di sud, in realtà assiste al fatto, pratica nomine in base... tali da non consentire il rispetto della legge. Questo è così, viviamo in un paese singolare. E poi soprattutto la carriera associata al fatto di essere un medico obiettore. Comunque sentiamo rispetto al Papa che dice che coi preti a quel punto finito il giubileo straordinario possono continuare a perdonare, no, le donne e chi partecipa a questa dolorosa scelta, dice il prete, che resterà un peccato ma comunque si può perdonare. Papa sembra più avanti dell'ipocrisia politica italiana, detta proprio fuori dai denti. Sentiamo Stefano da Roma, poi andiamo in pubblicità. Stefano, buongiorno. Sì, buongiorno, buongiorno a tutti. Niente, io sono in pensione ormai, come ero un anestesista nel sistema sanitario pubblico, quindi ho praticato l'interruzione di gravidanza, però anche io ero uno dei pochissimi che a quei tempi lo faceva, perché la maggior parte dei colleghi erano obiettori, e posso testimoniare il fatto che gli stessi colleghi che erano obiettori, non tutti, alcuni di loro poi andavano negli studi privati, nelle cliniche, certo, perché poi... Le interruzioni si facevano, certo. Cioè si facevano di nascosto, privatamente, pagando, questa è una realtà, cioè io apprezzo il gesto del dottor Mariano che non ha voluto dire questa cosa, lui è ancora in servizio. Perché magari, come ci ha spiegato, paga anche un prezzo alla carriera, perché poi c'è anche questo aspetto. No, certo. Ma ce l'ha spiegato bene, insomma, che poteva avere trasferimenti, eccetera, ma non ha avuto. Però, devo dire, lei Stefano ce lo conferma. Guardi, dobbiamo andare un attimo però in pubblicità, poi Oscar ci sveli tutto delle banche, tutti vogliono sapere se ci sono 8 banche che falliscono domani oppure no. Non lo so, Financial Times ha scritto così, qua in scritto così. Dici l'elenco, perché io devo capire bene dove ho il mio conto, se il mio conto, i miei piccoli 2 eurini sono al sicuro oppure no. E poi parliamo anche di un altro tema tra poco. State ascoltando un programma offerto da Più Libri Più Liberi, Fiera Nazionale della Piccola e Media Editoria, dal 7 all'11 dicembre al Palazzo dei Congressi dell'Euro, Roma. 24 mattino, attenti a noi due. Sono le 8:43 minuti. Allora, caro Oschi, io ho carta e penna. Hai carta e penna. Voglio sapere l'elenco delle banche. Allora, l'elenco delle banche è presto fatto, perché alle 4 banche già risolte del novembre dell'anno scorso, banca quindi Ferrara, Etruria, Marche, eccetera, eccetera, e Chieti, si aggiungono la Carige, la Cassa di Risparmio di Genova, di Malacalza, si aggiungono le due venete, quindi Veneto Banca e Popolare di Vicenza, e naturalmente Montepaschi, la Croce Delizia. Sono salvo. Non so. Vedi che frequentare Meazza tutti i giorni, no, religiosamente sono salvo, nel senso che non ho il conto in una di queste banche. Ti serve invece c'è vabbè, sto zitto perché c'è una parte che riguarda invece la mia famiglia, mia moglie che ce l'ha in una di queste banche. Va bene. Questo Financial Times se vince ieri. Ma il Financial Times riprende quello che il governo ha fatto ripetere e dire, cioè nel documento, la gravità secondo me che in un paese avanzato si accetti l'idea che in una banca come Montepaschi, la cui storia di mala gestione e disastri vari legata alla politica, cioè al PD per essere chiaro, per tanti anni, non giriamoci intorno, ha una radice e dei motivi di tutt'altro genere con quello che sceglieranno gli italiani, si accetta l'idea che alla fine gli organi della banca, nel lanciare l'aumento di capitale e il piano attraverso cui liberarsi 27 miliardi e mezzo di crediti deteriorati, mettono nero su bianco: ragazzi, se vince il no, però andiamo per aria. Allora, una roba che in un paese civile avrebbe portato un mucchio di soci, risparmiatori, detentori di titoli obbligazionari a chiamare la Consob dicendo: ma voi accettate che si scriva in un prospetto una cosa simile? Invece lo abbiamo scritto, abbiamo spiegato ai mercati che se gli italiani votano no è meglio che i mercati si ritirino, sì. E Financial Times l'ha riportato, lo riporta, questo è il problema. Per me l'articolo migliore di oggi su questo, Repubblica, Ferdinando Giuliano, che spiega lungo e largo ai lettori di Repubblica come sia un po' singolare, perché e le autorità italiane rispetto a queste banche che da anni non si interviene, si racconta che è colpa dei tedeschi, è istituito un sistema per il quale sono le banche sane che devono dare i soldi lì e non se ne esce mai, e stiamo adottando un criterio come se ci fosse una falla sotto la linea di galleggiamento, sì. E per coprire la falla stiamo levando il legno da altre parti dello scafo, imbarchiamo acqua ancora di più, dice Ferdinando Giuliano. Non si è voluto per Siena, e ho concluso, all'inizio la via della direttiva europea che diceva bisogna trasformare le obbligazioni in azioni, perché si è detto è una roba cattiva, dopodiché si è scelta una via privata per cui non ci sono i soldi, in cui si chiede agli obbligazionisti di fare la stessa cosa. Paradosso, io batto le mani a Ferdinando Giuliano, ma solo per dire ci sono tanti colleghi che scrivono in maniera equilibrata, diffidando di questa atmosfera da Armageddon sul voto del referendum, che con le banche e la storia della loro cattiva gestione secondo me non c'entra niente. Poco. Allora, guarda che qua, prima di passare al nostro ospite, il nostro medico che pratica gli aborti in Molise ha suscitato un paio di polemiche, gente che si è divisa, c'è anche Massimiliano che ci ha chiamato da Milano. Buongiorno Massimiliano. Buongiorno a tutti e due. Norme per la tutela sociale della maternità, è il titolo della 194. Sì. E poi dice anche dell'interruzione volontaria di gravidanza. Sì. Quindi innanzitutto a me piacerebbe un'indignazione di Giannino, che viene sempre molto bene, basta, perché in Italia si fa poco per tutelare socialmente la maternità, prima che pensare all'estrema razio della interruzione di gravidanza. Seconda questione che vi pongo, questa vicenda che la Chiesa comanda sulle scelte mi sembra veramente un insulto, non tanto alla mia intelligenza che è scarsuccia, ma quanto più alla vostra, perché dire che è la Chiesa che ha fatto in modo che nel Molise non ci siano che un solo medico che pratica l'aborto. È la politica, abbiamo corretto dicendo la politica. No, non è così. Se lei riascolta la trasmissione, Giannino ha, come dire, ha corretto, ma non in maniera puntuale, se mi posso permettere. Però non voglio fare la politica che al limite prende ordini. Il dottore ha ripetuto, e il dottore ha detto: vabbè, la politica a seconda, l'ha detto dottore. Io ho detto: è la politica che fa le nomi. Però al di là di questo, ho capito cosa vuol dire, certo. Mi sembrava un po' eccessivo, quindi probabilmente mi sembra che la libertà non possa essere, come dire, solo a senso unico, no? Per cui se c'è l'obiezione non siamo in una libertà. Posso fare io una domanda, ma Massimiliano, secondo lei perché c'è un unico non obiettore in Molise? Perché siamo in un paese libero, ringraziando il cielo e il Signore. Beh, statisticamente però è una cosa che le pone un problema oppure no, secondo lei? No, me non pone un problema, mi domando. Lei non domando. Pone un problema perché lei, immagino, ho capito, è contro la possibilità di interruzione volontaria di gravidanza, no? No, detta così sembra suona male. È ovvio che, voglio dire, a me è capitato, noi abbiamo perso un bimbo e quindi è capitato che, come dire, si sia dovuto fare questa cosa. Ma l'introduzione di gravidanza, cioè devi fare un'operazione. Ma mi chiedo e mi domando perché questo dottore non possa essere l'unico. Non vedo il problema da un certo punto di vista, anche operativo, da un punto di vista proprio pratico. Se lui è in grado di. Da un punto di vista pratico, ha sentito che dice tutti vanno da altri ginecologi che sono obiettori e gli dicono: vada da Mariano, lavandosi tra l'altro la coscienza. No? Vada da Mariano, questo, che fa tutto lui. Beh, è vero, ma questo, come dire, come qualcuno scriveva, in maniera magari non così enfatica, è un problema di coscienza di quei dottori lì. Ce l'avranno loro, il confessore, se ci credono, il nostro Signore, se ci credono. Io mi chiedo però quant'è, da un punto di vista numerico, il lavoro che deve fare il dottore. Se è sostenibile, ripeto, siccome è un'estrema razio, non è un'operazione, non è togliere un molare o farsi l'appendicite, non è questa cosa qui, giusto? È un'estrema razio, è pensata così, credo, non è pensata come l'ordinaria. È un'opportunità prevista dalla legge, lei la vede come una cosa, secondo me, che deve essere confinata un po'. È prevista la legge, però se ne fotte del fatto che in due terzi delle regioni italiane non siamo in condizione di offrire il fatto di poterla trasformare, tutela della salute della donna. Mi sembra un po', Oscar, che la sensazione fosse così. È prevista dalla legge, ma se mettiamo un po' di bastoni tra le ruote in questa opzione è meglio. Vabbè, comunque, Massimiliano, dobbiamo salutare un altro ospite, perché sennò non ce la facciamo, e a dare spazio anche a lui, perché Oscar, abbiamo raccontato, abbiamo visto e abbiamo scoperto che esiste una burocrazia, vabbè, in tanti settori. Io che sono appassionato, lo so da tempo, quindi plaudo a questa cosa. Legati al vino, al vino. Ma in Italia esiste una burocrazia per tutto, per non tutto. Ti credo. Vedrai. Tu pensi di poter dipartire? Io ti invito a occuparti prima delle cose che riguardano la burocrazia della nostra dipartita, perché altrimenti lasci a chi viene dopo due rotture di palla. Non male. Allora, vogliamo salutare il responsabile del settore vino della Coldiretti, Domenico Bosco. Buongiorno. Buongiorno. Allora, ci sono anche dei numeri che voi avete dato, cioè quante giornate di lavoro per chi si occupa del mondo del vino deve dedicare all'anno alla burocrazia, mettiamola così. Ma guardi, un'azienda di piccole dimensioni oggi ha un sistema di adempimenti e di burocrazia molto spesso inutile, che incide in media per oltre 100 giornate di lavoro all'anno. Pazzesco. E questo significa, diciamo, dedicare alla burocrazia inutile oltre il 20% del tempo lavoro dell'impresa vitivinicola. Beh, oddio, devo dire la verità che questo testo unico, che è passato di visto molto bene da tutte le aziende del settore perché semplifica eccetera, a propria volta ha 90 articoli, che dà l'idea che quando sempre in Italia, quando si semplifica, insomma, non so, 90 articoli sono tanti. Ma guardi, in realtà è vero che sono 90 articoli, però bisogna anche andare, diciamo, vedere che questo testo unico va ad eliminare tutta una serie di leggi precedenti e a eliminare tutta una serie di decreti applicativi. Dopodiché, nella fase di applicazione, essendo stati fissati dei principi molto importanti di semplificazione, chiaramente ci sarà uno snellimento. E poi, appunto, il concetto del testo unico, avere tutte le norme del settore in un unico testo normativo, a differenza per esempio di quello che viene fatto da altre parti, e cito diciamo nel nostro settore il modo assurdo di normare da parte dell'Unione Europea, che in questo periodo invece sta spacchettando le norme in più regolamenti. Però, Bosco, il fatto che appunto questo testo unico, almeno la Commissione Agricoltura in sede legislativa, è passato alla Camera, almeno possiamo dire che è una buona cosa, cioè questo snellimento è concreto, ci sarà questa burocrazia nel mondo del vino, è un po' falcidiata oppure no? Cioè, possiamo dire che quando si tratta di darla a bere la politica risponde all'appello? No, guardi, noi siamo, come dire, molto soddisfatti di quello che è il testo uscito, nonostante l'iter anche particolarmente lungo, perché voglio dire, anche questa legge ha avuto ben 2 anni e 8 mesi per arrivare alla luce, ma ripeto, noi siamo molto soddisfatti di quello che è il testo uscito, perché sono inseriti importanti principi di semplificazione. E le dico solo questo, dal momento che i nostri imprenditori hanno a che fare oltre che con tantissimi adempimenti, noi abbiamo detto che l'azienda vitivinicola, dall'impianto del vigneto alla vendita della bottiglia, di soli adempimenti vitivinicoli ha a che fare con oltre 70 attività burocratiche, ma diciamo, la cosa peggiore è che queste attività burocratiche sono fatte nei confronti di tanti soggetti, per cui c'è anche un problema di coordinamento. Noi abbiamo calcolato in particolari situazioni fino a ben 20 soggetti diversi tra pubblica amministrazione e non, che non dialogano tra di loro. Allora, qual è stata la ricetta? E nel testo unico c'è. La ricetta è quella di aver previsto questo sportello unico degli adempimenti attraverso il fascicolo aziendale dei produttori, in maniera da abbattere gli impegni di adempimento, in modo che almeno diciamo ci sia il coordinamento. Comunque stiamo parlando di un grande settore dell'export, quasi un punto di PIL. Viva Dai, ho fatto una battutaccia, la politica si tratta di dare a bere risponde all'appello, però battutaccia, ma sempre al solito ci vuole l'ironia. Guarda che molti ascoltatori dicono: l'abbiamo parlato del sindaco di Genova che è nato a 5 anni per l'alluvione, vabbè, però in primo, sai com'è uscita dall'aula? Facendo il dito 3, come dire, ci sono 3 gradi di giudizio. Certo, attendiamo. Io non avevo mica capito che avevano truffato addirittura sul comunicato che ricostruiva gli avvenimenti. Comunque, da approfondire, vedremo. In ogni caso, ci fermiamo qui. Grazie a Elisabetta Fusconi. Non andate a cucinare, stavo scherzando. Se volete andare a cucinare per piacere, fatelo. Dai, vabbè, ma come lo posso fare io? Come lo potrei fare anche tu? Allora, con Elisabetta Fusconi, Lorenzo Nespoli in redazione e il nostro Peter Bescapè in regia, ci troviamo domani, cari amici. E non ti fare rapire stanotte da qualcuno. No, no, no. Ciao! Ciao.